Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Now they told us that Vietnam was going to be very different from the United States of America, except for all the beer cans and the barbecue. It was. Sono stati i texani Best Friends a chiudere la prima parte di questo volume numero 1 di Eclettica. Invece è stato il ritorno di Lilith a caratterizzare l'apertura della seconda parte. Lilith che ritorna sulle scene dopo qualche anno invece in cui aveva deciso di dedicarsi alla famiglia, alla maternità. Lilith che torna con un album dal titolo The Black Lady and the Sinner Saints, e noi ci siamo appena ascoltati un pezzo degli Stooges. Sono sicuro che molti all'ascolto l'abbiano riconosciuto dal titolo I Need Somebody. Si prosegue invece con l'album in uscita il 19 di giugno su Temporary Residence da parte degli inglesi Fridge. Questa è Eyelids. Appartenere ad un universo meraviglioso, far parte della sua magia, non doveva rappresentare una soddisfazione sufficiente per smettere di inseguire i miei sogni, ma doveva invece essere un grande stimolo per cercare di realizzarli. Avendo una tale bellezza e varietà di eventi a mia disposizione, era tremendamente frustrante non riuscire a cogliere ciò che più mi piaceva da essi. Ero seduto in macchina, l'acciaio della porta carraia strideva sulle rotaie di ferro mentre questa si apriva lentamente. Giunta a metà della sua corsa, lasciava abbastanza spazio per permettermi di varcarla con la mia auto e dirigermi verso casa. Continuavo a pensare, ma i miei pensieri avevano cambiato direzione. Non viaggiavano più su una strada che avrebbe potuto condurli ad una meta, ma correvano disordinatamente, senza un'idea comune che li guidasse. In pochi attimi avevano abbandonato una linea coerente per divenire schegge impazzite che sfuggivano al mio controllo, dandomi l'impressione che il mio cervello implodesse su se stesso. Un pensiero ne richiamava altri 100, poi altri 1000 e poi altri ancora, alla ricerca di una risposta che potesse in qualche modo spiegarmi dove avevo sbagliato, che cosa avessi perso nel volgere degli anni per ritrovarmi a vivere un'esistenza che non avevo mai realmente desiderato. Questo era ancora l'incipit di Sogni di Andrea Meli. Dopo esserci riascoltati Fuji e Miyagi, siamo andati ad ascoltare un estratto da quello che è il nuovo album della formazione di Portland di nome Grails. Loro avevano esordito nel 2004 con l'album dal titolo Red Light, il 24 aprile invece sono usciti con questa nuova prova per Temporary Residence, dalla quale ho estratto Soft Temple. Ora invece è la volta di una novità per il gruppo brasiliano Bonde d'Orole, che ben conosciamo con Solta o Frango, che il 21 di maggio sono usciti con Office Boy. Il problema che mi si era presentato quella sera portava su di sé tutto il peso della bellezza dell'universo. Perché in un luogo in cui ogni cosa sembrava poter esistere, in cui non vigeva alcun limite alle mie scelte se non quello imposto dai miei desideri, non ero stato capace di cercare i miei sogni. Avevo perso di vista questo obiettivo, vivendo di luoghi comuni e di sterili pregiudizi, senza dare alla vita la possibilità di mostrarmi se davvero essi corrispondano alla realtà o se invece la realtà possa essere per ognuno di noi esattamente come noi la immaginiamo. Mentre questi pensieri divenivano sempre meno lucidi e si trasformavano in pesanti mattoni che schiacciavano la mia testa, io ero giunto a casa senza accorgermene. Mi trovavo dentro l'ascensore che si dirigeva verso il mio appartamento. Avevo aperto le sue vecchie porte di legno per entrarvici e avevo premuto il bottone numero 3 sulla sua tastiera di alluminio, che mi appariva come una sfocata forma di colore grigio appesa nel mezzo di una parete marrone. Ogni gesto era compiuto dal mio solo corpo in una sorta di nervoso meccanicismo, senza che la mia coscienza fosse in grado di percepirlo e di viverlo. La mia mente stava soffocando sotto la morsa dei suoi stessi pensieri, che la isolavano e la privavano di ogni collegamento con il mondo esterno. Il mio unico obiettivo era quello di raggiungere il letto, intravedendo nel tepore del soffice piumone una possibile via d'uscita dal labirinto di domande senza risposte in cui mi ero infilato. Mi trovavo in mutande nel bagno, senza che avessi la minima idea di come ci fossi arrivato. Mi ero lasciato una porta e dei vestiti alle spalle, ma non ricordavo come. La mia anima era lontana dalle mie esperienze. Questo era ancora l'incipit di Sogni di Andrea Mele. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 35, volume numero 1. Indice, Polly Paulsma, Joycat, Dylit, David Kirsten Daniels, Grimoon, Giardini di Miro, Best Friends, Lilith, Fridge, Fujiya e Miyagi, Grails, Bonde d'Orole, Londrette.